20:35, torniamo in diretta, sempre qui sulle frequenze in streaming di Mala Radio con Cronache di Regime, e siamo collegati con i ragazzi degli Antidigos con cui proviamo a farci una chiacchierata. Ciao, ci sentite? Pronto? Ciao, mi senti? Sì, ti sento, ti sento. Ciao, ciao a tutti e a tutte. Ciao. Ciao, ciao. Buonasera a tutti e a tutte. Ciao ragazzi. Allora. Ah, benvenuti a Cronache di Regime. E niente, allora, prima di parlare un po' del vostro nuovo CD, che tra l'altro poi, vabbè, dell'anno scorso, però diciamo nuovo perché poi il Covid ha insomma bloccato un po' tutto, anche per quanto riguarda presentazioni, eccetera, volevamo chiedervi un po' due parole sulla storia del gruppo, quando nasce il gruppo, e niente, parlare un po', insomma, parlateci di voi. Descrivetevi. Va bene, va bene. Ok, noi prima di tutto ci teniamo come collettivo Ex Caserma a salutare Pasqua e ringraziarlo per la disponibilità e per comunque averci portato adesso in diretta in questo momento, che ci teniamo anche a ringraziare la radio per questo momento. E semplicemente diciamo che noi siamo figli di un percorso che è quello dell'Ex Caserma, perché tramite questo spazio, nel momento in cui è stato liberato, ha fatto in modo che alcune soggettività della provincia si riuscissero a riunire in questo spazio. E in questo spazio si costruiva, ci si incontrava e col tempo, dalla complicità, dal fatto che si facevano cose insieme, è nato quasi spontaneo, come una famiglia, il progetto Antidigos. Infatti è nato qui dentro e niente. Forse anche come forma di riappropriazione di uno spazio per fare musica, avendo un posto del genere così grande da poter utilizzare e sfruttare. Immagino sia stata anche questa una cosa che ha spinto il gruppo a nascere, diciamo. Dopodiché, diciamo, ci siamo esercitati, perché non è che nessuno di noi ha studiato musica o roba, abbiamo iniziato proprio dal basso, lontano da ogni logica di mercato, in maniera indipendente. Abbiamo provato a formare questa etichetta, la Barrier Core, con cui stiamo provando a fare un po' di booking, un po' di serate, cercare di politicizzarle. Comunque il fatto di essere stato in contatto con queste realtà ed essere cresciuto all'interno ci ha sensibilizzato molto su tutta una serie di discorsi. E niente, diciamo che sì, il Covid ci ha danneggiato parecchio. Infatti questo CD, come firma Ancè sul disegno, doveva uscire nel 2017 in realtà. Poi un po' di ritardi, un po' di storie particolari che ci hanno fatto sparire le tracce, poi abbiamo rifatto tutto, una serie di deliri, insomma, c'hanno più il Covid, che veramente è stata la ciliegina sulla torta, diciamo. Ha fatto, diciamo, rallentare tutto. Infatti, grazie alla Monopress della Polonia, finalmente qualche mese fa siamo riusciti ad ottenere le copie fisiche. Finalmente, diciamo, abbiamo ripreso a fare date, perché solo quelle annullate erano veramente, diciamo, un desiderio di tornare sui palchi. Col fatto che era venuta questa pandemia, aver bloccato tutto, aver dovuto annullare tutto, e comunque diciamo, non è che la repressione pure va in vacanza o si prende il Covid. Comunque, bloccare i benefit per noi che sono fondamentali. Diciamo che poi il punk abbiamo sempre visto come una tartaruga nella antirepressiva, che ha sempre fruttato molto col tempo e con gli sbattimenti, con i sacrifici. Diciamo, noi colleghiamo tutto in un certo senso. E poi, che posso aggiungere? Vuoi dire tu qualcosa? Non lo so, Vabbè, ma tu come dico gruppo sei io. stato scelto, non è un nome casuale, ovviamente. Ah, ok. Vabbè, quello immaginavamo. No, volevo complimentarmi perché allora, come altri gruppi, anche voi vi siete buttati sul titolo di un CD un po' romantico, no? L'amor mio non muore, il fuoco non si è spento, ad esempio i Bull Brigade, Senza amor non vale nulla, dei Sud Disorder, però a livello musicale siete rimasti un po' intatti e su questo sono contento perché poi parlando anche con gli altri gruppi si è nettamente sentito il cambio musicale, la modalità di cambio musicale degli altri gruppi che ho intervistato all'oggi, quindi avete tenuto la linea, la botta che avevate un tempo, voi comunque suonate da svariati anni. 2014, ci siamo La formati. peggioreremo la botta. La peggioreremo la botta. Beh, meglio, più andate veloce, più suonate male, comunque meglio è se fate punk. E niente, quindi appunto avete già detto più o meno che comunque sto CD doveva uscire di 2017, poi cazzi e mazzi vari e Covid, si è andati un po' in ballo. Però siete riusciti a fare, oltre ad avere le copie fisiche, ad iniziare ad avere un po' di date, no? E quindi volevo chiedervi appunto questa cosa qui, se ora, nonostante la situazione del Covid che pare stia terminando, anche se lo stato di emergenza a causa del conflitto russo-ucraino qua si protrarrà fino a fine dicembre e chissà cosa ci riserveranno nel futuro i potenti, volevo capire un po' come vi state organizzando con date, concerti, tour, se appunto ne avete annullati, se ne avete progettati altri, quale date avete. E che idea avete se soprattutto farete il Bari Hardcore a fine agosto? Quella è la domanda che vi faccio io. Va bene, allora cominciamo col fatto che comunque sì, attualmente le date sono tutte confermate, attualmente, poi ovviamente oramai diciamo ogni giorno può cambiare qualcosa e noi puntiamo comunque, diciamo anche per una questione di continuità, a prendere le date, a provare a girare. Non ti nascondo che per fortuna da aprile fino a maggio abbiamo delle date, restiamo a luglio e agosto fermi, ma il Bari Hardcore l'abbiamo fissato. La penultima settimana di agosto, ma non ricordo le date con certezza, ma si fa. E poi da settembre abbiamo già qualcosa chiusa, però ovviamente ti ripeto, le cose cambiano giorno dopo giorno, è impossibile prevedere qualcosa. Se i tempi sono folli, c'è poco da dire, c'è tanto da vivere, da provare a continuare. Cioè, non saprei dirtelo poi diversamente. Per dirti, mo, in questo aprile ci stiamo per fare un'esperienza in Sicilia, dove stiamo provando il 15 a chiudere una data a Catania e poi tutto il resto del tour, per fortuna l'abbiamo definito, saremo a Palermo, all'Alibi, all'Interzone, a Reggio Calabria, alla Masseria Foresta di Crispiano. Cioè, poi varie date sparse, altri tour con altri amici, per fortuna diciamo di riuscire a chiuderle, ci stiamo riuscendo. Poi se c'è sempre la possibilità di farle, le faremo per sempre, cioè, c'è poco da dire, è la nostra vita quotidiana, non esiste cosa pari. Sì, oh, sì, ragazzi, siete punk, che dovete fare? Dovete suonare, andare più veloce. Anche per girare e mantenere rapporti con altre realtà è fondamentale questa cosa, di poter girare, che secondo me c'è quasi stata impedita, e quindi dovremmo riappropriarci anche di questi spazi, di questa libertà di movimento, nonostante continuano a impedircela in tutti i modi. Vediamo cos'altro si inventeranno prossimamente. Eh sì, eh sì. E va bene, dai, ma ci venite in zona qua a Milano oppure no, oppure ve lo devo organizzare io il concerto, come funziona? Come funziona? Se ce lo organizzi tu, ho Organizzo a disposizione. io sono vecchio, sono uscito dalla scena. Va bene, dai, ragazzi, dai, vi ringrazio per lo spazio che ci avete concesso e mo ci sentiamo altri due pezzi vostri, però io voglio sapere mo la differenza tra allerta antifascista 1 e allerta antifascista 2, che poi l'avete messe pure affilate sulle tracce, no? Potevi mettere una alla 7 e una alla 10, no? Proprio una al re dall'altro, vabbè. Ci è piaciuto così, diciamo, è molto sentito, quindi ne dedichiamo più di uno, diciamo. Ok. Va bene, come detto, ci sentiamo ora. Allerta antifascista 2 di Antidigos, Animal Liberation Front, Action. Vi ringraziamo e ci sentiamo presto e magari ci vediamo a Milano. Va bene? Grazie per il tempo. Dai, no, Vi grazie a voi. abbracciamo Ciao ragazzi, un prestissimo. abbraccione, a Oh, saluti presto. dall'ex caserma. Dai, Ciao, ciao. grazie, grazie. Ciao, buona serata. Ciao, ciao. Bella. Thank you. Ci sarà una fine di essere vicina che ogni essere vivente si sente in una forma di nervoso sistema.